Cobra Echo, c'è qualcuno che copia, cambia. Qui fa già una bagnata, cambio. Ci siamo, cambio. Breco, breco. Hola Breco, Breco. Attenzione a Breco, hola Breco, buonasera. Rosso da Radio Vivaro. Di chi è questa martellata di microfono? C'è qualcuno qua? Avanti, chi è questo segnaletto? Di quelle batterie, di quelle lampade quando manca la luce che si accende automaticamente. È bella mia, l'ho buttata, non me ne facevo niente. Era una patatura di quelle cinesi, gli ho messo le batterie e c'avevo un vecchio, è arrivata lampada e l'ho sistemata. Tutte le batterie. Ma grazie all'alimentazione 7,5, gli ho messo quella da 12, gli ho messo due batterie in più, in modo che si illumini come completamente, perché le batterie che montavano in cinese sono quelle grosse, non è che non servono a niente. Ok, no, quella che ho buttato io era completa, anche di batterie ricaricabile, tra l'altro. Ma ce l'avevo sempre dai piedi da un po' tra l'altro, non l'avevo mai usata, nuova, nuova, nuova. E l'ho portata lì al centro ecologico che c'è qui a Dei Punti il giovedì, no? Che si parcheggiano le macchine del comune per buttare i pezzi pesanti, diciamo, dai, cose ingombranti, eccetera. E l'ho buttata lì, ho buttato quello e ho buttato anche un computer di quelli da base. Dopo che ne ho tolto l'alimentatore, chiaramente, e anche la ventola ne ho tolto. Sì, ha già lampato chi sa roba io, lui. Adesso c'è un coso pieno di computer, c'è è morto il padrone 2 settimane fa. C'è pieno di roba, computer, ci sono alimentatori, trasmettitori FM, trasmettitori TV, di tutto c'è. C'è antenne per la macchina, pezzi di quelle macchine Fiat, la come si chiama, la Topolino, c'era dentro, c'era dentro, adesso non so se c'è ancora. Quindi figurati. Sta parlando di Mario Tigre, mi. Di Mario Tigre? E che sarebbe Mario Tigre? Non mi ricordo. Io per Tigre ne conosco un altro. Chi era Tigre? No, non me lo ricordo. Ehi, con gli occhiali, c'ha 500, c'ha. C'era laboratorio invece Vita Vecchia, capito? Poi il coso di Santa Maria, un magazzino, tutto pieno di roba, cazzo, non si poteva mai contare tutta la roba che viene rampata. Figurati tu, adesso ci passerà la Ruspari, ragazzi, lo dico io, ha rubato tutto me. altri giorni. Erano aperte le porte, avevano rubato tutto, si avevano venduto tutto, come minimo, a Ferro Vecchio. Non lo so, non ho conosciuto Mario Tigre, io ho conosciuto solo Sandro Tigre, non Deporto Torres, ma Mario Tigre non mi risulta, non so chi sia altro. Ho detto Mario Tigre, non Tigre, non Tigre, Tigre. Tigre, ho capito, perlomeno non mi risulta il nome, poi può essere che l'ho conosciuto, non so cosa dirti. È molto... una settimana e mezzo fa mi ha detto. Mi ha detto uno che sono andato a farmi il vaccino e si è avvicinato a me e mi ha fatto... non ci fai tu qua, mi ha detto, devo fare il vaccino. Dice, sai che è molto Mario Davino, mi ha detto, Mario Davino chi? Mario chi gliel'ha detto? Cazzo, tutto il bestia che gli hanno mandato, gli ho detto, via Santa Maria, c'è quello che è morto. Denunciava tutti, ho detto. Non lo so come sia la questione, se non ci sono più andato io lì. Quando ho trovato un cugino glielo chiedo, vedere se gli è rimasto, perché c'aveva alcuni portatili che aveva, antenne di macchina, valvole, transistor. Adesso quando lo trovo glielo chiedo e se me ne regala, se ci ritratto, se ce li butta me li tengo io e così mi sistemo qualche lineare, più solo quello che mi serve. Ciao a cavo, RG58 buttato, RG213, più solo quello che mi interessa più che altro. Poi adesso fa la cosa, c'è il cassone di cosa di marcire, lo chiami e ti lampi tutto. Guardate, ne vai. Ma cosa faceva questo? Raccoglietore di rottami? Non è che faceva raccoglietore di rottami, c'aveva un sacco di roba, non ha mai buttato, non ti regalava nulla, una volta mi chiedevo la cosa io, me la regali? No, mi serve, fa la cosa che te di racconta, Giurito. Allora se la attacca in culo, se la attacca, quella roba che c'era. C'era qualche microfono per baracchino, mi? Aiutati, non è che c'avevamo qualche trasmettitore FM andante di quelli di una volta, poi del resto no, tutta la roba, l'unica cosa che serviva era la macchina mia, la topolina c'aveva. Addirittura la topolina, è la topolina una macchina che potrebbe essere anche di valore se in condizioni accettabili. Se poi è un Ferro Vecchio, allora hai detto bene, da Marcello, l'unico posto è quello. E vabbè, dai, comunque, va bene lo stesso. Non c'è problema, poveraccio, anche lui. Se è morto, nel cielo ci sia. Per tutto quello che ho combinato, l'altro deve dire pace all'anima sua, per carità. Peggio per lui, è morto da solo, ma con l'amico c'aveva, figurati. A Santa Maria non potevano vederlo, perché se andava lì lo picchiavano, quindi era poco ma sicuro lì dove c'era la roba. Se ho fatto un sacco di nemici, ma a fare il suo sono, ormai è sopra. Chiederà perdono, ora voi ti richiedo, visto quello che ha combinato agli altri. Un pugno e un ubriaco fragico. Ciao Natali, ben sentito. Ciao Antonio. Ciao Natali, ciao. Cosa vuoi Antonio? D'altronde, Gesù Cristo già perdono a tutti, anche se lui è stato poco corretto, pazienza. Pazienza, Gesù Cristo ha le spalle molto larghe e perdona tutti noi, Antonio. Ah, ma già lo credo. Già ci perdonerà tutto quello che abbiamo fatto in terra. Ciao Giulia. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Natali, ciao. Bene arrivato. E mi stavo guardando prima il ciclismo e nel contempo anche la gara di San Roberto Pesi. Mio nipote medaglia di bronzo, purtroppo non è andato molto bene oggi, però è arrivato terzo, medaglia di bronzo. Stiamo parlando di campionati mondiali, non stiamo parlando di gare così da picco pallino, stiamo parlando di campionati mondiali. Vai Natali. Già me lo stavi dicendo stamattina. Vabbè, dai. Poteva fare di meglio, perché il suo record è superiore alle misure che ha fatto oggi. Oggi ha sollevato 154 kg di slancio e 126 di strappo. Però il suo limite era più alto, ma comunque, se è vero, il campionato d'Europa, siccome è due volte campione d'Europa anche, oltre al fatto che è anche campione italiano, aveva fatto una misura più alta. Però siccome lui è tendente ad aumentare di peso, allora per rimanere nella sua categoria ha dovuto fare la dieta per tutto l'anno, per cui si è un po' debilitato, ma comunque è andato bene lo stesso. Sul podio c'era lo stesso, va bene, non c'è problema. Avanti, Adriano. Stai uscendo bene, Natalia, ma non è il baracchino solito, è un altro questo. E questo è 2,5 watt, sta pompando adesso, questo qui, ecco, sta pompando 2,5 watt in questo momento. Il 3,900 te lo faccio sentire, se lo vuoi sentire, aspetta. Ti sentivo, si sente che non è il 3009, il 3009 è una falguba. Sì, certo. E questo 440, 440, abituato alla tappa, questo 44 della CTE, come sta uscendo, era un 44, era un Midland 44, c'è scritto, della CTE, costruito dalla CTE, come va, Antonio? La moglie che va bene, è perfetta di radio adesso, c'è una bomba. Avanti, Natali, prova. Guarda, questo è il 3009. Lasciami anche lei. Un attimo, concetto. Il 3009 questo qui è. Lasciamolo fuori. Devi abbassare un po' il macchinino, Giulio, è troppo forte, Emmy. Ho capito, l'ho fatto troppo vicino perché era appoggiato sul tavolino, troppo vicino era una carica, probabilmente ero troppo vicino, così va meglio. Fa un passaggio più lungo. Attento, Natalino, 1, 2, 3, dimmi se sta strappando. Ero troppo vicino al microfono perché per stare comodo mi sono appoggiato e non avevo tutta la lunghezza del braccio, capisci? Ero a 20 cm dal microfono perché ero appoggiato per stare comodo. Infatti stavi strappando poco fa, per quello che te l'ho voluto dire. E Antonio, come lo senti questo 3009? Perfetto, cambia 9,26. E questo c'ha 4 watt, invece l'altro 2,5 watt. E come cosa? L'ho omologato invece io, cioè quello che hai comprato tu, ha detto che ti ho detto piazzaci il microfono LVP4 che riesci a modulare. Ma io l'ho messo, come si chiama, l'unico microfono che funziona bene in quel baracchino è nel ZX40 della Genosa della Polman, il DM1000, l'unico attaccato, oppure l'M300. Escono bene così. Aspetta che ti faccio vedere una cosa con quello di 2,5 watt. Ehi. Ecco, adesso mi sono sistemato un pochino più lontano, così va bene. E ho voglia che va bene. Perché ero troppo vicino adesso, perché ero seduto prima sul letto e mi sono appoggiato. Adesso mi sono seduto sulla sedia e mi sono allontanato un pochino dal microfono. Così va bene, dai. Guarda Antonemmi, questo è quello che è di 2,5 watt. Salutami. Sì, si è sentito lo scatto, Rattari. Da 9,10 a 9,25 quasi. E il scatto non ce n'è perché lineare non ne ho. Sono i watt dell'apparecchio. Comunque esce con 2,5 watt sta uscendo adesso. Ho capito, comunque già va bene, già esci perfetta voglia. Ti credo tu sicuro, avanti. Saluto, l'ha già detto, no, sicuro, sicuro di me che hai. Ciao, claro, salutoni. Ciao a tutti, buonasera, buonasera, piove anche in campagna. Ciao, Claudio. lascia fare. E lascia fare un par di palle, io ho tagliato l'erba sabato, ah, mi sono questo fatto, ma ti servo tutto. Ma saluti Cervante, se no, hai piccina di toccare più tagliato, ma cresci di più l'erba. Grazie la cosa, sono venuto qua, una sfiga sempre, piovendo, taglio l'erba e piove, taglio l'erba e piove, ma non mi taglio più. Avanti Giulio. Giulio, c'è, boh, c'è cosa mi in offerta dello Speedy, a batteria a casa, il taglierba a batteria c'è a casa, prenditelo. C'ho rasa erba che mi siedo a Tratturino, c'ho il decespugliatore comprato da Amazon, c'ho tutta l'attrezzatura nuova mi sono fatto per la campagna, stai scherzando, già me ne posso. C'ho tutto Antonio. È che mi sono stufato di tagliare l'erba, ogni volta che taglio l'erba cazzo piove. Non dirà a me, guarda, l'hanno vissuto in campagna quasi 6 mesi, cioè te lo ricordi. Tagliavo l'erba tutti i giorni, tagliavo, che pioveva, più la tagliavo più cresceva, quindi a un certo punto mi sono tolto le balle. Capito? Dopodiché la via avevo trasloccato, salito su in consumito di Emanuele, e da lì poi sono passato via San Donato. Da San Donato, quando poi mi ha dato la casa a mamma, mi ha detto lì, da fittuare fuori, poi salire su abitare. Allora, non mi è sembrato vero. Infatti ci avevo tutto giù, lasciavo giù Mario Manser a piazzarmi la Super Vecchi, posso dire, te lo ricordi, cazzo. Allora adesso, quasi 8 metri di palo, se la bici di un palo. Infatti l'avevo abbassata, l'avevo. Oh, adesso si può mai contare quella campagna, il ponte è crollato, quello che ha fatto il comune e non vuole ricostruirlo. Ha detto se vogliamo il ponte di spendere i soldi noi, aiuto, che si è dato anche in culo la campagna, ha detto. Da parte mia gli ho detto, non ci voglio mai entrare, ha detto. Chi vuole entrare si fa quello che vuole, lì, melograni, l'uva, l'uva poi c'è tutto il resto. Tutto buttato via, non me ne frega un cazzo a me. Poi mi ha detto Giovanna, dice che era scesa un mese fa e c'aveva il maggiordomo dentro, un crociarce che ci abita. Ah, poi togliamo, va bene, andiamo. Io ho speso un patrimonio alle tecniche, ho preso tutta l'attrezzatura per campagna, sia rasa erba che taglia erba, taglia siepi, forbici, rastrelli, tutto mi ho comprato, non devo chiedere niente a nessuno, però mi sono stufato, caspita, tagliata anche a zappa tutti i bordi del giardino, ho fatto tutto, no, faceva di peggio di prima, vabbè, pazienza, avanti Giulio. Ciao Claudio. Sì, sei un attimo allontanato. E allora, come va? Stavo dicendo Antonello, piove, c'avevo un po' di cosette da fare, anche oggi ultimare un pezzettino di giardino che lo stavo tutto rastrellando. E invece stamattina mi sono alzato, ho visto questa giornata proprio bruttissima, adesso sta piovigginando. Sì, da ieri notte è cominciato a piovere, tuoni e lampi, ieri notte, per cui, ma lo sapevo già che il tempo cambiava, lo sapevo perché avevo visto il meteo, per cui va bene così, ma comunque speriamo che domani faccia bello, cosa vuoi che ti dica? Io vabbè, se non fa bello, pazienza, già si sta bene dentro casa al calduccio, non c'è un problema. Avanti Natalia. Cos'è Cla? Ho detto riprendi, già si sta bene dentro casa al calduccio, non me la futti nuda, se non si può fare nuda non si va di nuda. Sì, perché il tempo è instabile. Mimi, un attimo il telefono. Quale Falcone che ti ha mandato i carabinieri, mi? Come sto andando col Galaxy? Bene, Giulio, perché mi sembra sia la batteria scarica, la modulazione è buona. Buonissima, come sempre qua, come sempre, non c'è problema, va benissimo. KK, va bene, va bene. Alla grande, alla grande. E vabbè, comunque. E allora ti stai specializzando col Tosa Erba, e anche quello pure fatto, chiaramente se vuoi tenerti il posto in ordine senza troppa erba, allora devi lavorare, dai. E tanto il tempo non ti manca, Claudio, ti preoccupare. No, c'ho il tagliaerba, il decespugliatore così chiamato, che lo uso per fuori, per i bordi dei muretti, la stradina, eccetera. E la raserba ma lo uso dentro perché c'è l'erba bassa bassa e sembra tipo prato, capito? E con l'esfoliatore la rovini. Ah, non le passo la erba. Poi ho dato, mi sono comprato anche l'automizzatore con la spalle e ho spruzzato tutto l'antizecche, l'antizanzare, insomma il prodotto per gli insetti, capito, anche per il cane, tutto. No, è tutto pulito e ordinato, la verità, ho verniciato tutti i muretti di bianco, il cancello mi sono verniciato l'altro giorno, però cazzo il tempo non mi sta, non è contro di me mi sembra. Non è stabile, ecco perché è quello, è claro. Cazzo di più da voi, tu la dagli, come ti vivo da Racresci? Ma se vuoi poi siete già meglio, chi è che vuole entrare? La propagazione. Sciumaia gaga, arrivi poco forte, non l'avevo mai vista così alta la propagazione qua. Otto Carlo, Sì, vabbè, siccome ho tirato su l'antenna, ho messo bene l'antenna con i tiranti e tutto, adesso sarà 6 metri alta. Al posto suo, ma i segnali sono aumentati, ma è aumentata anche la propagazione. Beh, non lo sai che è così. E quando ero in campagna c'era una propagazione allucinante, dimmi, in quel canale del viene prodotto. Quindi figurati tu, l'unica cosa che avevo paura è perché lì quando faceva arrivava il temporale scaricava di brutto, scaricava me. Capito? Di solito scaricava lì a centro storico, ma passava una quattro ore aerea e quindi c'avevo paura se me ne vado anche fulmine in casa. Poi infatti avevo lasciato il capo a pezzolo di fuori e aiuto se mi piglia fuoco quello che c'è dentro, che c'erano un paio di bombole di gas, c'erano, e c'avevo paura se è stata l'aria tutto. Poi invece quando hanno aperto la casa con picco e si hanno provato via le bombe, così l'ho lasciata, ma non mi sbatteva un cazzo. Ma adesso poi da 2 o 3 anni a questa parte è crollato quel ponte, quindi Marco ci vado a tagliare l'erba perché ne ho le balle piene. Ormai era di andare a tagliare l'erba lì in campagna, non voglio più granaio. Non mi va più, preferisco starmene qua e basta, se dovessi andare da qua me ne vado in una palazzina con giardinetto qua vicino, se riesco a trovarla lì all'alberghiero e basta. Ora mi faccio i miei 100-200 metri, boh, devo essere tranquillo. Vabbè, io ci abito, io ci abito, capito? Quindi la mia parte me la devo fare. Tutto qua, va bene, va bene. Avanti Giulio, tutto a posto, sì. Come sta andando la radio, bene? Sì, sta andando bene. Sta andando bene qua. Non c'è problema, va benissimo. Sì, tutto a posto. È chiaro, se pretendete la casa e il giardinetto in ordine, si sa, devi soffrire, per così dire, tra virgolette, no? Perché giustamente essendo lì ti piace tenerla bene e fai bene a tenerla bene, perché se no cosa diventi? Diventa un modestaio quando lascia crescere l'erba, invece in questo modo te la fai sempre, quando vedi che un pezzettino sta crescendo te la tagli subito e dunque non fai questa grande fatica. Perché? Perché ci fai manutenzione molto spesso, se invece lasci crescere, poi ti devi spostare la schiena per tagliare tutto, invece vedi che stava un pezzettino, avanti un pezzettino me lo faccio tutti i giorni, non c'è problema, e va bene così. La campagna purtroppo, te l'ho detto un'altra volta, porta molta manutenzione, molto impegno, dai qua. Sì, ma a me non mi svago, faccio qualcosa, passa la giornata, capito? Mi invento sempre qualcosa da fare. Adesso ieri era domenica, non era male la giornata. Mi sono fatto un po' di manutenzione dietro il caveio, il tubo dell'acqua, allungato, portato fuori sino al giardino, da quel piovane, capito? Già sto facendola piano piano, comunque il bello è che sto benissimo, sto bene, sono contentissimo, il mio sogno si è avverato e va bene così. Allora, tocca a Gesù Cristo, se mi dà che imperi me la godo, se no se la goderà mia figlia, se avete di chi. Avanti Natali. Certo, in campagna va sempre in là, se no diventa un buco, diventa. Si vede la ghiandata, si è bruttito. c'è sempre da fare in campagna, ma almeno ti svaghi là. Invece di stare lì senza far niente, ti tagli l'erba, quello che c'è da fare, lì fai la manutenzione che va fatta. Si conferma, però te ripeto, oggi mi ha fregato. Adesso vediamo se domani è bella giornata, mi completo l'altro pezzo e poi col mio vicino ci dobbiamo fare tutta la strada, perché sta iniziando a allargarsi l'erba. Allora domani, se è bella giornata, abbiamo deciso di dare una bella pulita. KK, dai, riprendi Antonio, io rimango un attimo in quel Rix e se mai rientro dopo, ok? Vai Antonio. Sì, d'accordo, non c'è problema. Così bisogna fare, in campagna è così. Io a posto tuo mi avevo fatto, ci avevo messo la piscina esterna adesso, fatto che ce la puoi piazzare, perché se la piazzi sopra il tetto te ne va la... il tetto giù nel piano di sotto, ma lì in campagna, la poggio intera, una bella piscina lì, quella di plastica, alta un metro e mezzo, e ti diverti e ti pigli il bel sole. Poi se ne hai voglia ti fai un'altra cosa, ci metti i pesci dentro, le trotte, capito? Almeno non fai altro che andare a pescare direttamente col coso, col mestolo. Se ne ce l'hai tantamente. Ma c'è al bagno un po' sicura, mi posso vedere. Già c'è, non ti preoccupare. Anche quella va ancora sistemata, non gli ho fatto nulla ancora. E mi sto facendo l'orticello là dietro, vicino al cavillo, sto facendo una decina di metri di orto, così giusto per avere qualche cosa, e boh. Sempre va a fare che cosa, mi attone, niente di che. Vai Giulio, mi assento un attimo, torno dopo. Ok, d'accordo. Sì, ma guarda che è una bella soddisfazione, per una persona che non è del mestiere, per quanto riguarda la campagna, eccetera. Ad esempio, come stai dicendo tu, un pezzettino di orticello così, un pezzettino di prato, un pezzettino di dove ci sono i fiori, poi vedere crescere tutte queste cose è una gran bella soddisfazione, veramente. E vabbè, a me personalmente mi appassionerebbe molto, premesso che non ne capisco niente, sia ben chiaro, di campagna eccetera. Però sono convintissimo che è una grande soddisfazione, almeno per una persona che non è del mestiere, di uno addetto alla campagna, assolutamente no. È così. Io credo che chiunque si divertirebbe in campagna, a parte il discorso che naturalmente bisogna lavorarla, questo è ovvio. Vai Natali. E chi ne capiva era babbo, si era messo anche a studiare, figurati, per la campagna. C'è una via poco di roba, finta l'irrosi, che significa, pariani finti di velluto pariani, ma è lea. C'aveva, facendo gli innesti, c'aveva il pollice verde proprio, al compare doveva andare lui a farglieli, a chi gli doveva via la mano di graziata e non era ticchia uno. Allora chiamava babba a fare gli innesti. Sì, perché se uno non se ne intende, chiaramente queste cose, no, se non le sai fare, è chiaro che non possono crescere. Io ho due sorelle che hanno la campagna, tutte e due, ma c'è una mia sorella, la più grande delle sorelle, guarda, ha una campagna che è veramente un giardino, ma un giardino nel vero senso della parola, tu la devi vedere. Intanto abita lì, pensa che ha altre due case a Sassari, ha lasciato la casa di via Pasquale Paoli e una che ne ha su nel Monte Roseno Alto, zona via Castiglia, quella zona lì, soprattutto lì via Gazzereta, ha lasciato quelle due case, se le ha affittate per andarsene in campagna, si è costruito la casa in campagna, ma tu devi vedere questa campagna come la tiene mio cognato. Intanto ha un ingresso straordinario, bello, bello, bello, tutto illuminato, con i muletti, con le corsie, uno spettacolo, guarda, non te lo voglio nemmeno dire, ma credimi Natali, è veramente uno spettacolo quella campagna lì, è un giardino, nel vero senso della parola. Vai ancora. Passione ci vuole, babbo ci aveva la passione proprio. Lì due già era di campagna, Rugumparia, era campagnolo, però va via la mano di graziata, va a fare innesti, si avevamo un trattore di questi coldoni, vedi due bestie che giravano intorno all'albero. Una volta dopo si è finito l'uranà, fatta il sonno, e non riuscivano più a metterlo in moto perché era entrata aria nel coso. Ma poi si è girato l'uguale e ha infuocato un motorino e è entrata aria in oggi. E allora glielo ho dovuto spurgare tutto io per metterglielo in moto. Manco lui è aveva riuscito a spurgarglielo. Quando ha giù finito di spurgarmi, il bongo è morto. Ma i nopponi li so con i denti, lui viene in moto. Gira la chiave, cazzo, il primo goito. Se non lo sai fare, la cosa è inutile. Eh beh, certo che sì, ma è così. Mentre invece l'altra mia sorella, quella che ha fatto una casa a due piani. Poi c'è un magazzino per le feste di famiglia, che è di circa 50 metri quadrati, con tanto di caminetto, tutte queste cose. Ma tu la devi vedere quanto è bella anche quella. Poi ha una vasca grandissima, che è alta all'incirca 2 metri, più o meno. È grande, saranno almeno uno 15x15, insomma una bella piscina, ma una piscina che poi in realtà era già così da prima, da quando hanno comprato la campagna. Quando piove si riempie questa vasca, e da vedere, è una piscina, però non è una piscina, in realtà è una vasca, ma è bellissima veramente, guarda, è eccezionale. Poi ha fatto un cancello all'ingresso, un super cancello, tanto più che mio cognato era fabbro, prima lavorava in proprio, adesso non lavora più in proprio, aveva l'officina per Daniella, adesso no, è in pensione, però il lavoro se l'ha potuto fare prima. Va bene, avanti a dove? E aspetta un secondo, se ne vado subito. Va bene, riprendi tu, don Natale. E se no non li viaggia né le creme bruciate a chi sono, a compare di papà, chi è il padrino di Maria Mevradito, di Rubio Minori, che è Pittina. Una volta aveva fatto il compleanno quest'uomo, no? Invece di portare le paste avevo fatto una crema bruciata, una torta avevo fatto a crema bruciata, ma mamma mia, a chi erano un bei erano. E la domenica andavano sempre in chibi a mangiare, andavano. E Pittina come entri la vita, ha aggiunto, abbiamo si ribiazza chi si adduca, signor Cucantino, ha aggiunto, cazzo la giambisa e ha visto che era la crema bruciata, proprio quella che piaceva a lui, ma bella mia. Insomma, era un uomo anche goloso, insomma, a quel punto lì. D'altronde vuol dire che le piaceva veramente. Le torte sono buone, e magari che doppiate nei rossi. Io penso che almeno al 90% delle persone del mondo piacciono i dolci. Naturalmente c'è sempre qualcuno che dice non le mangio, ma non le mangia per altri motivi magari, o perché non le può mangiare, o perché non ci vanno matti, però in genere i dolci piacciono un po' a tutti, Natali. Sì, ero grillo. Lui gli piacevano queste creme bruciate, gli piacevano, mangiava quelle solo. Mi piace amichissi e buh. E lui l'ha giovato la duccia, l'ha giovato, ma era ci da vendami proprio. Beh certo, capita, era il tuo lavoro, io non credo che sia venda, ma la gara, se non lo fa, chiede al mestiere le torte belle, e chi le fa? Te lo credo, vabbè, sì. Ma io se non ricordo male avevo fatto anche qualche lavoretto in pasticceria da voi, adesso non mi ricordo, mi è stata lì, non vorrei sbagliarmi, ma forse avevo fatto qualcosina, ad esempio come sottile a vento o qualcosa anche nella cucina, mi sembra, non me lo ricordo, è la verità, tu ti ricordi qualcosa? In legno c'era un banco che poi ce l'avevano fatto togliere perché dice che non era igienico, e allora avevamo dovuto giambare tutti i banchi a che erano i buchissi mai, ma noi mi buttati via tutti in acciaio inossidabile, venivano a Cusimari a travagliare con questi in acciaio inossidabile, mi sono dovuto abituare a tirare la sfoglia sopra quelli in acciaio inossidabile, perché per tirare la sfoglia quello in legno era di lusso, però però per loro dice che non andava bene. E ho dovuto comprare 4 banchi tutti in acciaio inossidabile. E dove sai che i NAS ogni tanto cambiano idea, non gli ha dato la saccabo e non fanno mai lavorare la gente in faccia. No, ma io mi ricordo che avevo fatto, se ricordo bene, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che è così, avevo fatto gli sportilli che dividevano il banco di mescita con la parte interna della pasticceria. Mi sembra che era quella, con le molle a vento, in modo che lo sportello non lo dovevi toccare. Lo spingevi così con le gambe o con i fianchi e poi si richiudeva da solo. Mi ricordo che aveva fatto qualcosa del genere lì in pasticceria da voi. No, forse era la porta dell'antibagno, quella lì era così, per non toccarla. Non sai come tirano, chi c'è mamma un'idea ogni tanto. Allora è quella sicuramente, che tu entravi senza toccarla con le mani, entravi con la spinta stessa della persona camminando, si apriva, poi c'era la molla che si richiamava e anche quando uscivi lo stesso discorso, si chiamava quella porta a vento, si chiama quel genere di porte. Ricordo che l'avevo fatta proprio lì da voi, me lo ricordo, non proprio bene bene bene, ma mi sembra proprio di esserne sicuro. Esatto, la porta del Far West, sì, simile a quella, esatto, Gianni, ciao. Mi ricordi quando andavamo a mangiarci il papà, te lo dico. Sì, a Quintari mi basia, mi dissi, Cagiardini, Baffassini, Cannoli, di tutto. Addirittura adesso ho scoperto che le cialde dei Cannoli le comprano già fatte, invece noi le facevamo noi proprio. Perché dove lavora mio fratello dice che le comprano le cialde. Perché papà faceva anche la tomaia da riscaldatore, che faceva di campagna, faceva sia la tomaia sia la suola, ne metteva, no? Poi dopo tutta la lavorazione, faceva lo spago, la pece, farcirsi con la campagna, no? Poi filava con la resina, giugava con la uva, faceva i tubi, a mano, e poi si poteva ridire. Adesso stanno le suole che la tomaia te le danno già da notte, tu non fai altro che abbracciare. E infatti avanti tu diverso. Un paio fatti a mano ne aveva mio cugino di scarpe, ma belle, tu le devi vedere come erano fatte, erano in basta a mano i gruppi, i botti. E noi erano i botti grossi, figura, lì erano scarpe normali, però fatte a mano. Erano così belle quelle scarpe. Mi ho fatto portare la pece a casa, scaldata da un piatto a San Pecci. Poi faceva lo spago nudo, se non metteva il mocca o il filato, la roccia non era proprio la pece, andava a finire tutto lo stesso. Se non metteva il mocca e lui filava e passava la pece. Lo faceva da un culo, filava con la resina e filava, faceva il mocca. Figurati, ognuno da che sua. E papà non mi dava il cibo, ma quanto è difficile lavorare, come sta portando il lavoro anche a casa? Ma chi tu senza vanuta votino per pure a rimani, compreso, e chi sono il discorso? Ma pure Matessi, che sia sempre vendi, offerta di mani o di bevi, fai forza. Quando lui finiva di lavorare, prendeva e se ne saliva in campagna e lavorava pure in campagna. Dimmi tu. Era la spegna. E non fare che non prendeva le spegne. Prima settimana ho fatto anche andare in poi cominciava a... Cioè, ma lì, non si sa che io prendo solo la mano, e mia madre non mi dava. Ma sta, ho detto che 2 settimane, parte tutte e 2 stanno tutti. Allora cominciava, vedevo una mattina che si muoveva, magari un pochino, io con la mia mano. E dopo andava, vedeva uno che magari c'era qualche mattina, prendeva ma in effetti è così, uno che ha lavorato una vita intera è abituato ormai, non sa stare senza fare niente, anche quando poi va in pensione come me ad esempio, ogni tanto si deve inventare qualcosina per passare il tempo, perché sembra così, è bello essere in pensione perché sei libero, fai tutto quello che vuoi, però è una vita monotona mia, è una vita, io sinceramente, almeno fin quando un uomo ha le forze per poter lavorare, secondo me dovrebbe lavorare, perché è inutile, poi che se ne va in pensione si annuia proprio, a meno che uno è uno di quelle persone che non ha voglia di fare niente, allora il discorso è diverso. Però quando uno ha lavorato una vita intera, come ad esempio ho fatto io, come ha fatto tuo padre, eccetera, oppure come ha fatto il padre di Natalino, eccetera, e dopo senza fare niente non ci sei stare, anche perché hai già una certa età, per cui quando smetti di fare il tuo lavoro ti manca nel vero senso della parola, proprio senti la mancanza di quel tipo di lavoro che facevi, e allora ti inventi sempre qualcosina da fare, così di tua iniziativa. Avanti Natalino. È proprio così, signore, babbo non ribastava manco un travaglio in campagna, ed Edo andava a gurgumpare e si fazia nella provvista dell'Ozzo e si fazia nel vino, guarda, sempre andando e torrendo si fazia tutti e due uomini anziani così, eppure un gatto la fazia nella cosa, se una volta sono dovuto fare con un trattore io, ma stanno in tutti i gesti di Rariva. Va via pure una campagna in chimia rigiosi, va via vicino a casa di Gianfranco mi. Lì e in chimia in bunia a macchini da riva ora di solito che aveva fatto gente a casa bisogna cercare velocemente, ciao a tutti, mi spiace per la sentata, ciao Gianni, buono proseguo, avanti giù. Ok, ciao Gianni. Se ti liberi poi già siamo qua, non c'è problema. Sì, ma è così Natalia, ripeto ancora una volta, una persona che è abituata a lavorare una vita intera, e allora quando vai in pensione, sì è bello perché sei libero, perché hai modo di riposarti di più, tutte queste cose, però alla fin fine, almeno qui a Sassari, non è che siccome non c'è una grande vita, cioè la città non ti offre una grande vita, tu mi dirai, ma la vita uno se la può anche gestire e inventare, beh intanto per inventarsela e gestirsela ci vuole una certa diciamo economia, un certo valore economico deve possedere, se no cosa ti fai? Se ne vai per dire una volta in viaggio, ma la seconda volta devi pensare a rifabbiare anche le spese, e il discorso è anche questo. Per cui, ripeto, se uno è abituato a lavorare, stai tranquillo che avrà sempre la nostalgia del suo lavoro, perché poi si inventerà sempre qualcosa da fare, o a casa sua, o a casa di un parente, di un fratello, o che so io, a casa di una figlia, insomma, il lavoro se lo inventa, sempre, anche a casa degli amici, vai da lì. E mi avrebbero voluto, e infatti è così proprio giù, il due da sempre andando e si vede, si faceva l'uso, da giudizio, si faceva il vino, non so gli anni fa, mi faceva il vino che era di lusso veramente, roba di Lamone va via in campagna, viene l'uso, figurati. Facciamo tutti i centri, io e Angelo mio fratello, a salire nelle ceste di... abbiamo fatto un carrello, ma poi ci sono due ceste di Rariva, a chi da voi viene mica subito a Morino, a Mazzina. Vai Franco, ciao Fra. Ciao, buonasera, ciao Giulio, ciao Natalino. Se mi avrebbero voluto sono stati partiti immediati. Già che vogliono, basta partire, il biglietto parti subito e vai. Oh yeah. È così, Fra. E tu? Adoriando che sai qualche volta così, adesso che sei in pensione. Non mi dire di no, perché più di una volta ti sarai annoiato. Premesso che stare in pensione è una soddisfazione, intanto perché hai fatto un bel numero di anni di lavoro, poi perché hai avuto una certa età e allo stesso tempo perché ti senti libero. Però ogni tanto manca l'impegno di fare qualcosa, insomma, ecco. E allora tu sorriventi sicuramente. Ti hai inventato anche da poco, l'altro giorno ti hai accostato l'antenna, anche quello è un modo per passare il tempo. Sì, Giulio, infatti con la tua testa poco fa, se mi avrebbero voluto un lavoro come lavoravo prima, sarei partito immediatamente, senza battere il ciglio, perché mi occupava la giornata, ero più tranquillo, almeno mi muovevo, facevo e via, mentre qua a volte sono giorni che non ti muovi dalla sedia. Purtroppo è così, sì, la vita da pensionato è così, sai cosa ci vuoi fare? Io lo stesso, infatti a casa ogni tanto mi dicono cosa, cioè, non a me per direttamente, ma la madre e figlia così no, mi guarda, se non mi guarda, chissà cosa sta cercando di inventarsi adesso. Così mi fa vedere, così facendo finta che io faccio finta di non sentire, ma io lo intendo però. E loro fanno così. Avanti, Natali. C'è stato un break, però era un po' incomprensibile. Giù. È proprio così, uno si annoia, quando è abituato a travagliare, non è nulla di va, a meno che non stia male, perché se sta bene si annoia di brutto. Riprendi giù. Ciao Franco, a proposito. Facciamo bene la battle break. Avanti il break, aggiusta un pochino la radio perché non era bella. Ok, buonasera Giulio, sono tu il cordiale, curagno dalla diretta. Grazie a tutti, come ci sto arrivando dei segnali di radio, cambio. Ciao Francesco, sentiamo 9 pieno, la radio la deve migliorare ancora. Inizialmente era già forte, già va bene come potenza, il volume va bene, però è sporca, no, non è chiara. Migliorala, intanto ti mando avanti gli altri amici. Avanti Franco per Uranio, usilo. Ciao Uranio, me l'ha portato, sono d'accordo. E mi arriva un segnale di 7 e la radio, come ha detto Giulio, è un pochettino leggermente sporca. Come amplificazione va bene, però come emissione niente. Ok, va bene, sono andato troppo. Vediamo un po', a te il caso. Guarda, ora ti sei abbassato adesso il radio, tu hai toccato magari il mitigato a forza, hai abbassato la radio. Come modulazione, poco fa, come amplificazione era forte, era. Però che non è pulita la radio, ma tu. E ho capito un po' adesso, è sempre bassa, Giulio, come va qui? Lo sento più basso, già si capisce, quello che dice già si capisce, però è basso del radio adesso. Cioè inizialmente era forte il radio, però era sporca, non era proprio bella, limpida, c'era un po' di coso, c'era di, come dire, un pochino di, una specie di interferenza io sentivo, dai, come quando la radio è un po' rauca, eccetera, eccetera, la sentivo così. Va bene, comunque già si capisce, se non riesci a mettere a posto va bene lo stesso, io già ti sento e penso che anche gli altri ti sentano. Avanti Natali per Eulalio. La radio è bassa, però il segnale 9 mi arriva Uranio. Buonasera Uranio, Natalino Alfa 1 da Sassa di Cappa. Ok, buonasera Natalino, salto un po' di acqua da là. Ok, non lo so, vabbè, è importante che il microfono di lusso, basta il microfono, questo microfono è